Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. E sono le 16:33 minuti, Luca Tremolare al microfono, accompagnato dal buon Luca Dello Iacovo, forse in partenza per il Sudafrica, forse. Dipende dalle ceneri, se le ceneri decidono di scomparire, allora partiamo. Cioè, altrimenti... Sei vittima degli eventi, sei sulla notizia ancora una volta. Comunque, insomma, vedremo. Dentro se... la notizia. Dentro la notizia, vedremo se partirà o se non partirà. Noi racconteremo la storia, la vicenda di Luca Dello Iacovo. No, scherzo. Oggi parliamo di un altro tema. Oggi parliamo di nuove forme mirabilia dell'e-commerce, del commercio elettronico. Era inevitabile che, insomma, il social network, le reti sociali, Facebook ci mettesse un po' lo zampino in queste nuove forme di commercio elettronico. Ed entriamo in una declinazione, appunto, del commercio elettronico, che è quella del social shopping, sì, e quindi dell'acquisto di gruppo. Esatto, noi adesso ve le raccontiamo, poi se ci credete, bene, se non ci credete, vediamo. Comunque, prima le news. Facebook punta alla conquista di Internet. Mercoledì prossimo inizia la conferenza degli sviluppatori del social network e Facebook lancerà un bottone da aggiungere ai siti web. I navigatori online potranno votare a favore cliccando sulla parola like. La preferenza sarà condivisa con gli amici su Internet. Informatica e solidarietà. Sono 1,6 milioni i computer venduti con il progetto OLPC. L'obiettivo dell'iniziativa è di dotare i bambini nei paesi in via di sviluppo di un computer portatile a basso costo. Finora i principali acquirenti sono stati 5 paesi: Ruanda, Mongolia, Perù, Haiti e Uruguay. L'iniziativa è stata lanciata 4 anni fa dal guru dell'informatica Nicolas Negroponte. Passiamo alla biologia. Sono in fase di elaborazione i dati di un progetto decennale per l'esplorazione degli oceani, il Census for Marine Life. Secondo i primi risultati, le specie di microbi marini sarebbero 1 miliardo. Gli scienziati hanno raccolto 18 milioni di sequenze di genomi in 1200 località. Lo studio sarà pubblicato a ottobre. Rieccoci studio, 16:36. Allora, noi parliamo oggi di glamour. Siamo in collegamento con Alessandro Lorica o Lorica. Buongiorno. Buongiorno, ciao Luca. Aspetti, sì, il cognome è Lorica. Lorica, ecco. E mentre il nome è glamour. Esattamente, il nome è sì. Allora, a noi abbiamo una scheda che racconta un po' come funziona questo sito, che è un po' sbagliato chiamarlo di commercio elettronico. Ma commercio elettronico alla fine è il motore che sottostà il glamour, se vuoi. L'idea è quello che c'è sopra. Chiaramente tutta la macchina non allora, prima vediamo di che cosa si tratta. Mandiamo la scheda, poi ritorniamo subito con lei. Lezioni di volo, corsi di teatro, cene nei ristoranti. La scommessa di Glamour è di offrire esperienze fuori dall'ordinario. Non è un sito di commercio elettronico, ma uno spazio per la creatività. Nasce dalla tradizione dei gruppi di acquisto. Le persone versano singole quote e insieme comprano le offerte. A fondare Glamour è stato Alessandro Lorica, ex manager per una società di consulenza. Ha deciso di cambiare vita e puntare sul consumo consapevole. Glamour è la sua prima avventura imprenditoriale. Allora, prima volevo un commento di Luca Dello Iacovo, cioè come inquadriamo questo tipo di sito? Sì, in un cambiamento che c'è ed è quello appunto degli acquisti di gruppo. Cioè, se io voglio comprare una cosa su internet, la posso comprare anche con altre persone. Noi molte volte abbiamo parlato dei micropagamenti. Quindi io verso una piccola quota dell'acquisto, altre persone versano la loro quota e tutti insieme si compra qualcosa. In questo caso specifico poi sono diverse anche le cose che si possono comprare delle lezioni, si possono comprare, diciamo, delle esperienze. Quindi è anche un'idea diversa di quello che si può comprare, no? Non è soltanto l'acquisto come quello del supermercato dove vai negli scaffali e devi prendere un pacco di pasta, ma è un acquisto anche di un'esperienza e c'è anche un'ottica di sostenibilità, di vita sostenibile, quindi di cambiamento delle abitudini verso un clima più verde, se vogliamo. Ecco, proviamo a passare la palla ad Alessandro Lorica, che è appunto il direttore generale di Glamour. Lorica, ma quanto pesa nella nascita di questo tipo di siti la crisi, il potere di acquisto che si riduce, e quanto invece una modalità diversa, nuova, che riguarda però una fetta, parte me dello Jacopo, piccola insomma, di persone che frequentano i social network. Ma guarda, sicuramente il fatto che c'è stata una crisi dalla quale stiamo uscendo, magari lentamente, ma stiamo uscendo, è sicuramente importante, ma non pesa nel senso di dire alle persone di come spendere i soldi, ma di come spenderli meglio. Nel senso, vi ha aiutato la crisi? I siti di commercio elettronico sono stati aiutati dalla crisi? Non credo tutti, nel senso che, come dicevo prima, un posizionamento come quello di Glamour, dove diciamo agli utenti di come spendere meglio i loro soldi in un momento come questo, è sicuramente fondamentale, nel senso che ovviamente le persone dedicano il loro budget ai fabbisogni primari, ma sicuramente se qualcuno gli dà la possibilità di accedere a qualcosa che vada oltre i bisogni primari e quindi delle esperienze emozionali o sensoriali come quelle che produce Glamour, ha dei prezzi accessibili, chiaramente coniuga una esigenza che probabilmente rimarrebbe insoddisfatta in un periodo di diciamo di crisi o di post-crisi, quasi post-crisi. Ecco, ma di che esigenze parliamo? Cioè, che cosa si può comprare? Perché? Qual è la differenza? Facciamo un esempio, insomma. Cioè, così facciamo capire anche agli ascoltatori di che cosa stiamo parlando. Ecco. Allora, noi finora abbiamo fatto delle proposte, come ad esempio di fare delle lezioni di volo su degli ultraleggeri, piuttosto che di fare dei corsi specialistici come quelli di massaggio Ayurveda, piuttosto che di cucina monopatica, o come altri che usciranno, magari non ve li anticipo perché la sorpresa è carina, però sono sempre in linea con questo tipo di esperienze. Queste sono esperienze molto emozionali che se dobbiamo fare attenzione al corso di volo, insomma, di volo acrobatico, penso anch'io. Certo, no. Cioè, se dobbiamo guardare al portafoglio probabilmente non ci pensiamo a cose di questo tipo. È chiaro che se noi portiamo online una cosa che poi è sempre esistita, che è quello dei gruppi di acquisto solidale, tutto sommato esistono da sempre, li portiamo online, uniamo il potere del web 2.0 che sposta il paradigma da frizione a interazione, il potere dei social network, non ci ricamo solo perché lo conosciamo tutti, a quel punto abbiamo la possibilità di far diventare accessibili delle esperienze molto particolari, molto esclusive ad un pubblico che naturalmente non le andrebbe a guardare. Nel senso, io salgo sull'aereo ma da solo, o saliamo tutti e 10 quelli che fanno l'acquisto? Cioè non ma è un pullman, è un monoposto, no? Certo, è un biposto, cioè è un biposto. In quel caso è un biposto, c'è l'istruttore che fa il volo assistito insieme alla persona, però noi abbiamo ovviamente realizzato questo come gruppo di acquisto, quindi non so. Cioè, per cui invece di fare una corsa ne fanno 10 e quindi, esatto, facendone tante si guadagna sul volume, un po' questo la chiave del business. Assolutamente, sono due aree di guadagno, ma questo vale per tutti, per il signore della scuola di volo, per il signore della scuola Ayurveda, per tutti i nostri partner che hanno esercizi commerciali come ristorazioni e pub o altre cose. Ecco, cioè, ma ci si incontra all'interno dei gruppi? Cioè, se io compro qualcosa con delle altre persone, incontro le altre persone che come me hanno comprato quella cosa, oppure assolutamente, questa è una cosa che noi stiamo cercando di spingere, perché può portare offline il mondo del social network online, cioè stiamo cercando di far sì che le prenotazioni, perché poi dopo che è acquistato il coupon avviene la prenotazione con il nostro commerciante, no? Quindi si prenota il corso di volo, si prenota il ristorante particolare. Ora, sui ristoranti tra l'altro abbiamo una cosa esperienziale molto carina che magari poi vi accenno solo dopo. Stiamo cercando di far sì che queste persone prenotino tutte insieme per far sì che l'evento diventa un evento sociale dall'online all'offline, e questo secondo me è un po' il modo per chiudere il cerchio. Ma no? Poi con ristoranti particolari mi sembra di capire, non so, il ristorante di lusso dove ti fanno un conto sassata. Oppure il ristorante indiano dove mangi cose piccantissime. Allora vi faccio un esempio, stiamo preparando un'offerta che si chiama Cena al Buio. Se non è particolare questa, cioè nel senso che si cena al buio, non nel senso che non si sa quello che si mangia, ma che sono spente le luci, che non si vede nulla. Allora, okay. Questa è una cosa molto particolare, ve la do come anteprima. Allora, c'è un ristorante al centro di Roma che è gestito da persone non vedenti e che organizzano ogni settimana questo tipo di cena con la cucina fatta da loro e con dei piatti molto particolari, sicuramente molto gustosi e speziati, eccetera eccetera, e loro ripropongono questo come modo di condividere la loro esperienza di vita, e cioè loro vivono così e quindi si propone a delle coppie che sono invitate a questa cena al buio di dividere l'esperienza di queste persone per capire il loro mondo e il loro quindi mondo. La sala è completamente buia. La sala è completamente buia, dove sono assolutamente tutto buio, è solamente una questione di esercitare gli altri sensi e di centrare anche il piatto, l'udito, cioè l'olfatto, i sapori, il gusto, quindi ma bellissimo, cioè bellissimo, poi è un'esperienza particolare. Beh, è molto sociale, perché quello di far incontrare persone che è molto sociale, anche se non ci si vede in faccia, però è molto sociale. È molto sociale perché permette di far capire alle persone normovedenti com'è il mondo delle persone non vedenti o magari ipovedenti, e quindi capire che in realtà il mondo è lo stesso per tutti, solo che alcuni ci interagiscono in un modo, altri in altro. Allora, intanto la ringrazio. Nova Lab 24. Allora, 16:46, vai Luca. Quante persone per adesso sono arrivate sul vostro sito? Beh, sono in tanti e ci chiedono un po' tutti come funziona, perché il meccanismo in Italia è diciamo abbastanza giovane, sebbene in realtà negli Stati Uniti e in Giappone esiste da tantissimo. Dico solo Giappone, credo da più di 5-6 anni in servizio da un paio d'anni, e va veramente alla grande, anche perché loro sono magari un po' più predisposti all'e-commerce. Comunque ad oggi abbiamo migliaia di connessioni al giorno, qualcosa come, non so dato il numero sul preciso, ma ci sono oltre 10.000 richieste al giorno. Ecco, negli Stati Uniti poi da poco è stato comprato anche un sito simile che si chiama Groupon, o meglio è stata acquistata una partecipazione all'interno di Groupon, che è un sito simile di social shopping. E abbiamo Luca. Sì, no, io abbiamo anche in collegamento, cioè sì, no, è normale, Marco Cassini, che è il cofondatore di Minimum Fax. Loro hanno un progetto estremamente interessante che in un certo senso si richiama a quello di Glamour. Sentiamo la scheda. Il libro come materia prima per l'arte. Il progetto lanciato da Marco Cassini, cofondatore di Minimum Fax, si chiama Rebook. È un concorso per riutilizzare i volumi destinati al macero. Le opere devono ispirarsi all'ecologia e all'obiettivo di impatto zero. I materiali aggiunti alla carta devono essere ecologici. Nessun limite per la quantità di volumi impiegati in ogni opera. L'uso creativo dei fogli è nel DNA di Minimum Fax. La casa editrice è nata 15 anni fa a partire da una newsletter inviata ai sottoscrittori attraverso messaggi via fax. Ecco, questo è completamente, se vogliamo, un altro, si applica ad altri temi, però insomma c'è una matrice comune. La cosa che volevo capire è perché solo all'ecologia? Marco Cassini è in diretta. Sono in diretta. Perché solo all'ecologia? No, sì. Non si applica solo all'ecologia. Ecco. Innanzitutto c'è un'ecologia sicuramente di pensiero, volendo ripetere una battuta, o meglio, rivoltare una battuta. Noi editori spesso ci viene detto che distruggiamo l'Amazzonia, distruggiamo gli alberi per farne libri, e quindi volevamo, come dire, distruggere i libri o comunque ridare nuova vita, ricreare, riusare, riutilizzare i libri per fare qualcosa di nuovo. E non a caso la prima cosa che ci abbiamo fatto, appunto per restituire il maltolto all'Amazzonia, abbiamo fatto un giardino di carta che abbiamo presentato a Milano. Ah, no, più pensavo che si rifacessero gli alberi. In un primo momento ho detto che adesso distruggono i libri per fare degli alberi, no? Ci arriveremo. Sarebbe un riutilizzo, mica male quello. Per ora, appunto, abbiamo presentato al Fuori Salone a Milano, nella settimana appena conclusa, un giardino di carta, un'installazione dell'artista milanese, appunto, Alice Visin, che con le pagine dei nostri libri che erano destinati al macero perché guasti, rovinati o fuori catalogo, ha creato delle rose. Anche perché, cioè, è facile che venga l'idea, avendo a casa dei libri, Cioè, io non so se Luca ti è mai successo, però avendo a casa molti libri che sono vecchi e che dovresti magari buttare, poi quei libri si accumulano e uno non sa che cosa farne. Però invece questo è un modo, invece di buttarli, diciamo, via o distruggerli, è comunque un modo per trovare un riutilizzo creativo. Cioè, c'è della materia prima. Il libro, uno in genere lo pensa come soltanto come qualcosa da leggere, invece è anche una materia prima per fare arte. E questo diventa una cosa interessante, anche poi nell'ottica proprio di creatività e di sostenibilità, poi. Ecco, ma qual è l'obiettivo? Cioè, al di là della comunicazione, del fatto di reinventarsi qualche cosa, cioè voi editori, anzi in particolare lei, sentite veramente l'accusa di essere dei distruttori di alberi? Oppure in questo momento, diciamo, è interessante ed è importante guardare all'ecologia, guardare all'impatto zero? No, ovviamente non sentiamo l'accusa, e anzi, se possiamo difenderci da questa accusa, possiamo rispondere oggi con il terrore che si prospetta davanti ai nostri occhi dell'ebook. In quel caso, con il libro elettronico, le Amazzonie varie saranno salve. Ma comunque l'idea forse è più che altro di creare una sorta, non so come dire, di trasmigrazione delle anime, di metempsicosi del libro, perché a qualunque editore crea un colpo al cuore l'idea di doversi disfare di parte delle proprie creature, ma diventa una necessità. Insomma, ma Cassini, diciamo, lei è veramente spaventato dalle ebook? Io non ci credo. Cioè, poi alla fine della assolutamente fiera... ma diciamo, sì, rispondevo al luogo comune, cioè quello dell'Amazzonia, con ulteriore anche perché di difesa, volendo, che è quello, adesso i libri non esisteranno più, no, anche perché volendo mi viene da dire, sì, l'ebook richiede elettricità, elettricità insomma energia, l'energia, ci sono le centrali idroelettriche, però ci sono anche altri tipi di centrali, però insomma volendo girare intorno è un po' complicato trovare qualcosa di completamente poi sostenibile. C'è anche un ministro della Repubblica che ci ha dimostrato che con la carta inutile si può creare energia, ha bruciato non so quante migliaia di leggi, noi potremmo fare la stessa cosa con i libri. Oddio, anche nel creare energia. Oddio, anche nel passato, sì, chi bruciava leggi non era bravissimo. Non ha fatto una bella fine. No, però il tema è queste due esperienze che cosa hanno in cui io volevo tornare un solo secondo da Lorica, se è ancora in linea. Guardi, una risposta al volo perché sta finendo il nostro tempo, ed è: qual è la parte solidale del progetto? Cioè, in che cosa sta la solidarietà in un tipo di progetto di acquisto, di gruppo d'acquisto? La possibilità di rendere accessibile dei prodotti o servizi di nicchia che sarebbero normalmente molto costosi e quindi poco disponibili al pubblico online e offline. Mi sembra puntuale. Va bene, noi abbiamo terminato il nostro tempo. Ricordo che gli indirizzi, insomma, di questi due servizi li pubblichiamo sul Twitter di Novalab24. Noi continuiamo a raccontare queste storie che vanno dalla comunicazione al nuovo modello di business, all'iniziativa nuova. Si incrociano con una vita sostenibile, cioè uno stile di vita che è più... che ha un impatto ridotto sull'ambiente, o anche ripensare appunto l'utilizzo di materie che uno ha sempre sotto gli occhi, come la carta, e che possono avere un altro. Insomma, destino. L'invito è quello: attenzione, quando tra un po' di anni torneremo a cercarvi, per cui vogliamo sapere come sono andati a finire questi progetti, per cui insomma restate connessi e restate collegati. Noi intanto ci sentiamo domani alle 16:30, grazie di aver partecipato. Nova Lab 24.